Dialogo settimo. Raccontò Abu Huraira: un uomo, dopo essersi avvicinato all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: indicami un'azione equivalente al jihad. Rispose: non c'è.